Appello ai cittadini per evitare il contagio. Se vedete un venditore ambulante per strada, non chiamate il numero indicato dal governo per segnalarlo. Andate a comprargli qualcosa. Se notate che gli manca una maschera, non rimproveratelo. Vedete se potete procurargliene una. Non fare il poliziotto. Se sentite che il vostro vicino ha dei sintomi, non guardate fuori dalla finestra per vedere se lo beccate che esce a fare la spesa. Chiedeteli se ha bisogno di qualcosa. Non fare il poliziotto. Se vedete gente per strada che cammina nel vostro quartiere, cercate di non sospettare il peggio. Non chiamate il 112. Forse dovevano andare a lavorare. Non tutti hanno il privilegio di chiudersi in casa con il frigorifero pieno. Non fare il poliziotto. Se dovete uscire a fare la spesa, non guardate male chi avete intorno per paura di infettarvi. Salutate, fate conversazione, non è il vostro nemico. Non fare il poliziotto. Se incontri qualcuno che vive per strada, non attraversare l'altro lato della strada per paura. Se potete, uscite di casa con del cibo, una maschera in più, un po' d'acqua in una tanica. Evitiamo la diffusione del poliziavirus, un virus che non andrà più via.